You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento di Radio 24 con gli italiani di origine straniera, in questo caso un'italiana che ha deciso di vivere altrove e di conoscere bene una cultura che è una cultura che c'è molto vicina anche geograficamente. In questo momento sentiamo ancora più vicina per quello che è accaduto a Tunisi, e mi riferisco all'attentato al Museo Bardo. Io sono in collegamento con Giada Frana. Buonasera Giada. Buonasera Valentina, buonasera a tutti. Giada è una giornalista italiana che ha deciso di vivere a un certo punto della sua vita a Tunisi. Giada, tu sei lì da un po' di tempo, un paese molto tranquillo, affacciato come noi sul Mediterraneo, che improvvisamente l'altro giorno, insomma, ha vissuto delle ore drammatiche. Tu dov'eri? Io quando è successo l'attentato ero all'Istituto di Cultura Francese, stavo leggendo un libro, tra l'altro per rimanere in tema, un libro sulla Tunisia, quando sul cellulare hanno cominciato ad arrivarmi le notifiche dei media locali riguardante l'attentato. E si parlava appunto di un attacco al Parlamento che poi era andato male e poi questi terroristi avevano preso degli ostaggi nel museo. All'inizio si parlava di 5 morti, poi 8. Poi appunto nell'arco della giornata il numero è continuato ad aumentare. Sono uscita, sono andata al Avenue Bourguiba, ho cercato un taxi per andare lì al Bardo. Ovviamente con quello che stava succedendo ho fatto molto fatica a trovare un taxista che mi potesse portare fino lì. È passato qualche giorno e i tunisini sono scesi in piazza più volte, c'è stato un sit-in subito, manifestazioni giorni dopo. Tu sei andata in mezzo alla gente, hai parlato con le persone? Sì, io sono andata giovedì al sit-in al Bardo. È stato organizzato un sit-in appunto da parte della società civile per ricordare le vittime. C'erano gli avvocati con le loro toghe, c'erano molti giovani, donne, bambini, quindi tutta la popolazione tunisina, un mix della popolazione tunisina, e portavano fiori sul posto, sono state accese anche delle candele, si vedeva davanti all'ingresso del museo il pavimento, le piastrelle tutte smosse, probabilmente appunto per quando c'è stato l'attentato, si vedevano lì fuori le macchie di sangue, e vicino a queste macchie di sangue sono stati messi dei fiori, sono state messe delle candele. E poi i tunisini hanno cantato un pezzo di No Woman No Cry, dedicato alla Tunisia, appunto per dire no, la Tunisia non deve piangere, e hanno cantato anche l'inno tunisino, quindi per sottolineare comunque che non... in questo momento non bisogna avere paura, ma bisogna far vedere che sono uniti. E parlando con la gente, appunto tutte le persone tutti i tunisini con cui ho parlato hanno voluto sottolineare proprio questo aspetto. Hanno detto se Se noi facciamo vedere che abbiamo paura, facciamo il gioco di quasi terroristi. Invece dobbiamo continuare ad uscire di casa, continuare a far vedere che noi siamo contro il terrorismo e che questo atto non metterà la Tunisia in ginocchio. Io ho visto anche molti appunto media occidentali che hanno messo titoloni per la Tunisia è finita. Secondo me non è finita, appunto vedendo la reazione di questo popolo, il popolo non permetterà che finisca, non permetterà che il percorso della transizione democratica che hanno incominciato, è stato un percorso comunque stato portato avanti dal 2011 con fatica anche. Però appunto tra i paesi della cosiddetta primavera araba, la Tunisia è il paese che ce l'ha fatta maggiormente. E secondo me questo fatto sicuramente è grave, perché appunto è la prima volta che hanno attaccato dei civili. Però secondo me la Tunisia ha la forza di potersi rialzare e di andare avanti, di continuare il processo di transizione democratica che ha iniziato. Che effetto fa da lì, da Tunisi, sentire la notizia che Costa Crociere e MSC, l'altra grande compagnia, dopo questa strage hanno deciso di cancellare gli scali a Tunisi? Ma ti dico, la mia reazione, ma anche dei diversi italiani a Tunisi che conosco, è stata... Sono rimasti un po' allibiti quando hanno letto questa notizia, perché il paragone che fanno è quando è successo l'attentato a Parigi, nessuno si è permesso di dire non andate più a Parigi, la Francia è pericolosa, non andate più lì. Invece con la Tunisia lo stanno facendo, stanno dicendo appunto la Tunisia è finita, non bisogna andare più lì, è un paese pericoloso. No, non è così, non è un paese pericoloso, cioè quello che è successo in Tunisia poteva succedere ovunque di questi tempi. Il terrorismo ormai è diventato internazionale e lo Stato Islamico comunque con questo attacco non ha attaccato l'Occidente, ma ha attaccato la Tunisia. I musulmani sono tra le prime vittime dello Stato Islamico. You've got to give a little... Indovina chi viene a cena? Torniamo in studio e parliamo questa sera con Giada Frana, che è una giornalista che vive a Tunisi ormai da qualche tempo e che ha vissuto da vicino purtroppo questa strage al Museo Bardo di Tunisi. Giada, ci stavi dicendo quanto può essere offensivo e anche controproducente isolare la Tunisia? non ha bisogno di essere, non deve essere isolata, ha bisogno di un appoggio da parte dei paesi europei, da parte anche dei paesi arabi. E l'appoggio significa appunto non bloccare il turismo, perché il turismo rappresenta comunque un'entrata molto importante per la Tunisia, però reagire con la paura è sbagliato, perché appunto, come ripeto, quello che è successo a Tunisi poteva succedere in un'altra parte del mondo, potrebbe succedere un italiano che abita a Tunisi da tempo mi ha detto: se ci facciamo perdere dalla paura, allora non andiamo più neanche in udienza in piazza San Pietro a sentire il Papa, perché anche lì potrebbe essere un luogo adatto per un attentato. I vertici della STOI, l'associazione italiana proprio dei tour operator, hanno detto che non c'è un pericolo, che è stato un evento isolato, e nonostante questo ci sono state richieste di viaggi che sono state annullate in Tunisia. Dicevi, sottolineavi quanto la Tunisia si fondi, l'economia tunisina, sul turismo, no? C'è preoccupazione da questo punto di vista, immagino. Sì, i tunisini sono molto preoccupati che appunto, adesso in seguito a quello che è successo, i turisti non vengano più qui in Tunisia. Però è stato davvero un appesolato, perché sì, finora ci sono stati degli attentati, ma sono stati sempre degli attentati o in zone di confine o in zone montagnose e mirati ai militari. Questo è il primo attentato in cui sono stati coinvolti dei civili. Senti, la Tunisia è un dato di fatto confina però con la Libia, dove in questo momento la situazione è molto caotica. Tu hai paura, ti senti in pericolo? Rimarrai a Tunisi? Io non ho paura, sinceramente non mi sono mai sentita in pericolo, perché appunto so che gli attentati che ci sono stati fatti erano sempre in zone riguardanti i confini. E quindi qui nella capitale mi sentivo al sicuro. È vero che l'attentato di qualche giorno fa è venuto proprio nella capitale, dove pensavo di sentirmi al sicuro, ma questo non cambia la mia percezione. Io comunque qui mi sento bene, so che il governo tunisino comunque già da tempo ha messo controlli più severi sui confini, per evitare appunto che dei terroristi, dei gruppi estremisti da parte della Libia potessero entrare, e nei prossimi giorni, come richiesto anche a gran voce della popolazione tunisina, dovrà certamente cercare di aumentare la sicurezza anche a livello della città, soprattutto considerando che settimana prossima si terrà il World Social Forum, che è un evento mondiale che si è già svolto in Tunisia 2 anni fa, che si ripeterà per la seconda volta, per la seconda edizione anche ancora in Tunisia, e per cui la sicurezza in quel periodo sarà sicuramente maggiore. Però non è stato annullato. I tunisini hanno reagito, gli organizzatori del World Social Forum hanno reagito appunto anche dicendo: no, non dobbiamo annullare questo evento, perché dobbiamo far dimostrare ai terroristi che noi andiamo avanti. E tutti i sostenitori della democrazia e della pace del mondo devono essere con noi, devono venire, devono partecipare numerosi a queste iniziative per dimostrare appunto che la Tunisia non si piegherà, che non sono riusciti nel loro intento. E gli altri italiani che sono a Tunisi, con i quali tu hai contatti, pensano di partire? No, gli italiani che ho sentito, anche loro pensano di restare. Hanno gli stessi sentimenti miei, quindi anche loro dicono, ci sono alcuni che sono a Tunisi da 20 anni, altri che più o meno da una decina d'anni, un altro ancora che è qua da 1 anno e mezzo, e spesso hanno delle società qui, quindi sono degli imprenditori, ma tutti quanti mi hanno sottolineato la volontà di non voler partire. Hanno sottolineato il fatto che appunto la paura, avere paura non serve a niente, che non dobbiamo dimenticarci che anche noi abbiamo avuto in Italia gli anni di piombo, il terrorismo l'abbiamo avuto in casa, quindi il terrorismo può attaccare ovunque. Quindi un'amica sottolineava il fatto che si sono subito i cosiddetti sciacalli, dell'islamofobia, sono stati subito pronti a riempirsi la bocca di luoghi comuni, triti e ritriti, non hanno aspettato altro che questa occasione per ricominciare a creare comunque un clima ancora di paura verso anche l'Islam. Senti, c'è stata questa famosa rivendicazione dell'ISIS, perché in Italia se ne è parlato subito e forse anche a sproposito all'inizio, ma poi c'è stata. In realtà non è ancora del tutto chiaro, perché sui media italiani ne hanno subito parlati, ma sui media tunisini ha cominciato a circolare una notizia solo ieri nel tardo pomeriggio, ma solo su media, tra l'altro tunisino l'ho letto, non su altri media, in cui dicono che pare, quindi è ancora comunque in corso di verificazione, che stia circolando un video su internet in cui lo Stato islamico rivendica la paternità di quello che è successo, ma appunto non è ancora del tutto chiaro, ancora tutto in linea di definizione. Sempre sui media tunisini è stata pubblicata un'altra notizia in cui si dice che sull'account Twitter di alcuni sostenitori dello Stato islamico, questi sostenitori fossero molto contenti di quello che era successo in Tunisia. Però appunto sono tutte fonti da verificare, non è ancora ben del tutto chiaro chi ci sia dietro. E dal punto di vista dei foreign fighters, anche dalla Tunisia, come tu sottolineavi, sono partiti molti ragazzi, no, per andare a combattere in Libia, in Siria. L'opinione pubblica tunisina su questo come si esprime? Allora, l'opinione pubblica tunisina su questo ci stiamo dicendo che è un fenomeno molto complicato, che bisogna comunque capire che questi giovani sono spesso giovani che non conoscono bene la propria religione e che quindi sono facilmente manipolabili, facilmente malleabili. Basta che arrivi una persona che fa finta di conoscere meglio di lui la religione, che estrapola dei versetti del Corano senza contestualizzarli e dice che bisogna fare la guerra contro gli infedeli, bisogna partire, andare lì e uccidere, quando comunque il messaggio del Corano non è così. Ma dato che questi giovani appunto non hanno alla base una conoscenza forte della loro religione, possono cadere in queste trappole. In più molti tunisini hanno sottolineato come comunque la situazione economica in Tunisia appunto non sia delle più rose, c'è ancora molta disoccupazione giovanile, ci sono molte regioni, soprattutto interne e del sud, che sono in situazioni di povertà, e quindi questi giovani che vedono che sono senza futuro possono vedere nell'andare a combattere altrove per un ideale che per loro è più grande come un modo per dare un senso alla loro vita. Comunque quindi è molto delicato, la religione quindi c'entra poco, cioè non c'entra per nulla, cioè la religione è strumentalizzata dai reclutatori che cercano di appunto mettere queste idee in testa a questi giovani per fare in modo che non siano altro che burattini nelle loro mani, che ubbidiscano ai loro comandi pensando di fare qualcosa per la religione, mentre fanno qualcosa seguendo interessi tutt'altro che religiosi. Giada, come tu sai, la nostra trasmissione ha sempre come ospiti dei migranti e tu in un certo senso lo sei. E leggevo in un tuo pezzo recente che adesso ti sembra di capire di più tuo marito quando era lui migrato in Italia, adesso che tu vivi questa situazione a Tunisi, è così? Sì, è così. Sicuramente l'essere immigrata in un altro paese mi ha aiutato molto a capire mio marito, perché ti faccio degli esempi. Quando ad esempio era si riuniva con alcuni amici, spesso si metteva a parlare in tunisino. Io a volte un po' me la prendevo perché mi sentivo un po' esclusa dalle loro conversazioni, perché ovviamente non conoscendo la lingua mi sentivo tagliata fuori. Però poi quando sono venuta qui, dopo un po' di mesi, anch'io ho sentito comunque spesso il bisogno di parlare la mia lingua. Quindi appena trovavo un italiano o un tunisino che poteva parlare l'italiano, mi esprimevo direttamente della mia lingua. Quindi capisco il suo bisogno di esprimersi nella sua lingua madre. Capisco anche la voglia a volte di voler mangiare certi cibi o certe bevande che provengono dal proprio paese, perché ricordano magari appunto dei momenti piacevoli, ricordano la famiglia. Che cosa ti manca dell'Italia da questo punto di vista? Allora, vorrei avere parmigiano reggiano, mozzarella, la varietà di formaggi che mi mancano e anche i biscotti per la prima colazione. Ricca di profumi e di sapori particolari, la cucina tunisina è molto varia e arricchita da un grande utilizzo di spezie come l'anice, la menta e il cumino. La cucina tunisina è inoltre molto piccante. Esiste una storia che narra di una donna anziana che diceva che un uomo poteva giudicare l'amore della moglie dalla quantità di peperoncino piccante utilizzato nella preparazione dei piatti. Tra i piatti tipici della gastronomia tunisina ricordiamo, oltre ai famosi spiedini e al couscous, l'agnello cucinato in anfore di terracotta, il brick, una speciale crepe ripiena di uova, verdura e carne. Abbondante è il consumo di frutta e soprattutto dei dolcissimi datteri. Coltivati soprattutto nel sud del paese, a ridosso del deserto, questi frutti molto dolci sono utilizzati per preparare gustosi piatti. Chi ama il pesce potrà assaggiare il corplet de poisson, pesce fritto o alla griglia con contorni e uova fritte, degli ottimi gamberoni giganti, oppure della cernia preparata con limone, finocchio ed erbe aromatiche. Tra i primi piatti, il più tipico è il brick, una sottilissima pasta triangolare detta malsouka, farcita con un uovo o con ripieno di erbe, che nelle trattorie viene preparata e fritta davanti al cliente. Altra specialità è la salade mechouia, composta da pomodori e peperoni alla griglia, tagliati a pezzetti, mescolati con tonno, uova, capperi e sedano e conditi con olio d'oliva e limone. Fra i piatti forti spicca il couscous, una sorta di semolino fatto in casa che si cuoce a vapore e si serve solitamente con uno spezzatino di carne o pesce e verdure. Si mangia poi tutto insieme, aggiungendo a piacere la famosa ais, una deliziosa salsa piccante a base di peperoncino rosso e olio di oliva che accompagna molti piatti tunisini. Ti salutiamo, ti ringraziamo moltissimo per essere stata con noi questa sera. In bocca al lupo per la tua vita in Tunisia. Grazie a voi, buona serata. Buona serata a tutti voi e grazie per l'ascolto. Ci risentiamo sabato prossimo, sempre sulle frequenze di Radio 24, il Sole 24 Ore. You've got to give a little, that's the glory of